grande, son qua. Cosa mi riserverai? Tu di certo non sai che ho lasciato i miei grandi amori. Una madre, una donna, forse la gioia di vivere, ma la speranza fa vivere, e di questa speranza vivrò. Come me non dovrà partire per poter lavorare. Quel giorno festa sarà, festa per gente come me. Stranieri noi!